I correttori ortografici moderni sistemano i nostri errori di battitura in, cioè, in una frazione di secondo e lo fanno in modo del tutto invisibile. Esatto, non ce ne accorgiamo nemmeno. Sbagliamo una doppia o magari dimentichiamo un accento e prima ancora di poter elaborare la cosa, il software ha già ripulito tutto lo schermo. È una comodità incredibile, senza dubbio. Assolutamente. È una comodità a cui ormai, diciamo, siamo totalmente assuefatti. Ma c'è una domanda. Una domanda abbastanza provocatoria con cui vorrei aprire questa nostra esplorazione di oggi. E Sono tutta orecchi. se questa efficienza totalmente senza attrito ci stesse in realtà segretamente rendendo degli scrittori peggiori? Cioè, e se il software perfetto fosse quello che ti costringe a fare fatica, a fermarsi e a pensare? Guarda, è un ribaltamento di prospettiva davvero affascinante e direi che ci porta dritti al cuore dei materiali che stiamo per analizzare oggi. Esatto. Il nostro punto di partenza per questa chiacchierata è un documento del 2015. È stato curato da Marco Guastavigna e ha un titolo già di per sé molto evocativo. Si intitola Non ci sono quasi più i programmi di una volta. Un titolo che sa molto di nostalgia, insomma. Sì, ma è una retrospettiva incredibilmente lucida su come è evoluto il software educativo. E per capire bene di cosa stiamo parlando, c'è un'immagine specifica in quel documento che cattura perfettamente questa transizione. Ah, quell'immagine, sì, mi è rimasta impressa. Per chi ci ascolta, cerchiamo di immaginare per un momento la scena. Non stiamo certo guardando uno di quei dispositivi ultrasottili in alluminio che spariscono negli zaini di oggi. No, decisamente no. Tutt'altro mondo. La foto mostra un vecchio massiccio e squadratissimo portatile Olivetti. Plastica grigia, una tastiera spessa che, cioè, sembra proprio opporre una resistenza fisica a ogni tocco. Quelle tastiere meccaniche dovevi proprio premerle con forza. Esatto. È uno schermo che oggi ci sembrerebbe completamente alieno. Lo sfondo è di un rosso intenso, quasi aggressivo a guardarlo, e sopra ci sono queste lettere nere e squadrate. Il programma in esecuzione si chiama Guida all'uso delle parole. E sai, quell'Olivetti con lo schermo rosso non è soltanto un reperto di archeologia informatica o un semplice vezzo per nostalgici. No. No, affatto. Rappresenta un ecosistema concettuale completamente diverso. Oggi consideriamo l'informatica come una semplice infrastruttura, giusto? Certo, un mezzo per consumare roba o produrre velocemente. Esattamente. Uno strumento che deve farci lavorare in fretta e rimanere rigorosamente in background. Quel vecchio computer, invece, ci ricorda un periodo storico in cui il software veniva concepito come un vero e proprio ambiente cognitivo. Un ambiente cognitivo. È una definizione interessante. Sì, perché era progettato intenzionalmente con uno scopo pedagogico. Non doveva fare il lavoro al posto tuo, doveva, in un certo senso, insegnarti a pensare meglio mentre lavoravi. Ed è proprio questo il filo conduttore della nostra analisi. La missione di oggi è ricostruire questo tuffo nel passato dell'informatica per la scuola. Per capire cosa abbiamo guadagnato e cosa abbiamo perso. Esatto. Capire come il passaggio dalla carta allo schermo ha trasformato la nostra mente. E come si è evoluta la situazione passando verso il moderno Web 2.0. Per cogliere davvero la portata di questo cambiamento, dobbiamo partire dalle fondamenta. Dobbiamo capire il salto concettuale avvenuto decenni fa quando la scrittura è passata dalla carta allo schermo. Ok, cerchiamo di analizzare bene questo punto. Come viene descritto nei documenti? Il documento di Guastavigna propone un'analisi molto dettagliata, con degli schemi precisi. Contrappone sostanzialmente due mondi. Da una parte abbiamo il supporto rigido. Che sarebbe la tradizionale carta e penna, immagino. Esatto. E dall'altra parte il supporto flessibile, rappresentato dallo schermo del computer e dai primissimi word processor. Fermiamoci un secondo su questo supporto rigido, perché sono convinto che le implicazioni psicologiche siano enormi. Sono d'accordo. Cioè, se pensiamo alla carta, all'inchiostro o anche solo alla vecchia macchina da scrivere meccanica, la sensazione è quasi quella di scolpire nel marmo. Una metafora perfetta. Il marmo non perdona. E infatti, se fai un errore profondo nella struttura logica di un discorso, quell'errore è praticamente permanente. O per rimediare fai una fatica fisica enorme. Devi usare il bianchetto, tirare righe ovunque, o prendere un foglio bianco e ricominciare da capo. E proprio per questo motivo il documento sottolinea una cosa fondamentale. Il supporto rigido impone quella che viene definita una prescrittura mentale obbligatoria. Cioè, devi avere già tutto chiaro prima di iniziare. Praticamente sì. Prima ancora di appoggiare la penna sul foglio, sei costretto ad avere una mappa concettuale in testa. Non puoi improvvisare troppo la struttura, perché il costo della revisione è altissimo. Certo, è troppo faticoso cambiare idea a metà pagina. Revisionare nel mondo del supporto rigido significa letteralmente dover riscrivere tutto. E invece l'arrivo del computer, cioè il passaggio a questo supporto flessibile, distrugge completamente questo paradigma. Lo ribalta del tutto. Se la carta era marmo, la scrittura digitale è come modellare l'argilla. Se la forma iniziale non funziona, non butti via il blocco intero. Aggiungi materiale qui, ne togli un po' lì. Esatto. Sposti un intero paragrafo da pagina 10 a pagina 1 in una frazione di secondo. Il documento usa un'espressione bellissima per questo. Parla di perfezionamento progressivo. È un'espressione chiave, guarda. Nel supporto flessibile, la revisione smette di essere una punizione o la correzione di un fallimento. Diventa parte del lavoro stesso. Precisamente. Diventa una fase costitutiva, organica, del processo di scrittura. L'autore parla infatti di scrittura decondizionata. Decondizionata perché sparisce l'ansia dell'errore irreparabile. Sì. Puoi letteralmente pensare mentre digiti, sapendo che tutto è temporaneo e malleabile. Ma aspetta, c'è una cosa che mi viene in mente. Se il testo diventa argilla modellabile in tempo reale, questa cosa non cambia radicalmente anche il ruolo di chi insegna o di chi corregge? Oh, assolutamente sì. È una mutazione pedagogica enorme. Perché, insomma, se ripenso ai miei vecchi temi in classe sulla carta protocollo, il ruolo dell'insegnante era quello del giudice supremo. Il giudice alla fine del percorso. Esatto. Il testo era concluso, consegnato, fine della storia. E poi arrivava la temutissima penna rossa a sanzionare gli errori. Il documento evidenzia proprio questo. Con il computer, l'intervento di chi valuta non deve più aspettare la fine del processo. Può avvenire durante. Esatto. L'autore lo definisce uno stimolo, suggerimento, commento e valutazione in progress. Wow, valutazione in progress. Sì, l'insegnante o il revisore può entrare nel documento mentre le idee sono ancora in fase di elaborazione. Può intervenire sulle fondamenta logiche prima che la casa sia completamente costruita, per usare un'altra metafora. Questo ha perfettamente senso dal punto di vista teorico, ma c'è un dubbio che mi sorge spontaneo. Dimmi. Come facevano i software degli anni 90 a mettere in pratica questa idea? Perché, onestamente, uno schermo nero con un cursore che lampeggia non ti insegna nulla da solo. È solo una lavagna elettronica più costosa. È un'osservazione giustissima. Ed è qui che la nostra analisi incrocia un esempio che trovo geniale, una cosa che sembra quasi fantascienza al contrario. Il famoso grillo pedante. Ah, il grillo pedante. È forse l'esempio più vivido in assoluto di cosa significasse concepire il software come ambiente didattico. Parliamo di questo programma specifico analizzato nel documento, giusto? Il WordProf. Esatto, WordProf non veniva venduto come un semplice elaboratore di testi per uffici. Era esplicitamente definito un ambiente per la didattica della scrittura di testi. E guarda, solo a vedere gli screenshot di questo WordProf si percepisce un approccio totalmente alieno rispetto ai vari Microsoft Word o Google Docs di oggi. Completamente un'altra filosofia. I menu a tendina non sono pieni di opzioni per, sai, cambiare font o inserire tabelle colorate. Sotto la voce assistente si trovano dei veri e propri comandi cognitivi. Sì, ci sono funzioni per riassumere, espandere, scrivere paragrafi. L'interfaccia stessa ti sta dicendo: «Ehi, non sono qui solo per impaginare le tue parole. Sono qui per aiutarti a strutturare i tuoi pensieri». E l'esempio del grillo pedante illustra questo meccanismo in modo perfetto. Analizziamo bene quell'immagine nel documento, perché è illuminante. C'è questo tema scritto da uno studente. Il titolo è «La città. Come è e come la vorresti?». Un classico tema scolastico. A un certo punto, lo studente fa un errore di punteggiatura. Infila male una virgola prima di una congiunzione o qualcosa del genere. Ora, pensiamo a oggi. Un qualsiasi software correggerebbe quell'errore nel momento esatto in cui premiamo la barra spaziatrice. O al limite ti mette la famosa riga ondulata rossa o blu sotto la parola. Esatto. Fai un rapido clic destro, accetti il suggerimento e il problema è risolto senza il minimo sforzo cognitivo. Non impari nulla. Perché la priorità dell'interfaccia moderna è rimuovere ogni possibile frizione. L'utente non deve mai essere disturbato. Ma WordProf fa una cosa che oggi farebbe venire un infarto a qualsiasi designer della Silicon Valley. Non corregge l'errore. Non lo corregge affatto. Al contrario, ferma l'utente, blocca letteralmente il flusso di scrittura e apre una finestra di pop-up. E questa finestra dichiara: errore di punteggiatura. Si tratta di una frase incidentale che va delimitata da virgole. Una vera e propria spiegazione grammaticale a schermo. Cioè, aspetta un attimo, un programma che si rifiuta di fare il lavoro sporco e invece ti fa la ramanzina. Sembra un incubo di usabilità. Chi vorrebbe usare un software che ti sgrida? Se lo guardiamo con gli occhi di un consumatore di oggi, abituato all'efficienza immediata, sembra un incubo, ti do ragione. Ma? C'è un ma. Ma se lo guardiamo con gli occhi di un educatore, è un piccolo capolavoro. Ciò che è affascinante qui è che il software si rifiuta di essere una protesi invisibile. Assume il ruolo di un tutore. Un tutore esigente, direi. E avere un istruttore di scuola guida. Bella questa analogia. Cioè, i correttori ortografici moderni sono l'autista. Ti portano a destinazione mentre tu stai seduto dietro a guardare il telefono. Arrivi con un testo perfetto, ma non hai imparato minimamente a guidare. Mentre WordProf era l'istruttore seduto al tuo fianco. Con i doppi comandi. Non ti faceva la curva al posto tuo, ti obbligava a guardare gli specchietti e a capire come farla da solo. Analogia perfetta. E guarda che non si fermava solo alla microcorrezione della singola virgola. Il documento esplora anche le funzioni di alto livello, come quel comando riassumere che citavamo poco fa. Ah, vero. Come funzionava quello? Pensa a oggi. Se chiedi a un'intelligenza artificiale di riassumere un testo, ottieni un paragrafo perfetto in 2 secondi netti. Ma tu non hai processato mezza informazione. Zero sforzo, zero apprendimento. WordProf, invece, quando l'utente selezionava riassumere, non generava il testo da solo. Forniva dei consigli metodologici interattivi. Del tipo? Suggeriva azioni precise, tipo cancella, sostituisci, riorganizza, oppure diceva all'utente di estrarre idee chiare. Praticamente ti trattava come uno studente di logica, non come un dattilografo. Esattamente. Ma questo livello di profondità pedagogica, questa volontà di trasformare il computer in un maestro severo ma giusto, da dove nasceva? Cioè, non credo che un gruppo di programmatori si svegli la mattina e inventi una roba del genere dal nulla. E fai bene a non crederlo, perché non è andata così. Questi programmi erano l'incarnazione tecnologica di un preciso momento storico e culturale in Italia. Ah, c'era una filosofia dietro. Una filosofia profondamente influenzata da figure intellettuali di altissimo profilo. Il documento ci porta a esplorare, ad esempio, il lavoro del professor Tullio De Mauro. Una figura enorme per la linguistica italiana. Assolutamente. E ci introduce al concetto cardine dell'educazione linguistica democratica. Qui è dove le cose si fanno veramente interessanti per me. Educazione linguistica democratica suona quasi come un ossimoro, o comunque unisce mondi lontanissimi. In che senso? Beh, la linguistica di solito fa pensare a regole accademiche, vocabolari polverosi, mentre la democrazia riguarda i diritti civili, la società. Come si uniscono queste due cose all'interno di un software per computer? Si uniscono attraverso un'idea radicale e bellissima. Il linguaggio non è solo un mezzo per esprimere se stessi, è l'infrastruttura stessa della partecipazione civile. Cioè, se non capisci, non partecipi. Esatto. Se il linguaggio pubblico, quello della politica o della burocrazia, è incomprensibile, la democrazia fallisce. Le persone vengono di fatto escluse dalle decisioni. E per tradurre questa filosofia in pratica, furono creati strumenti informatici specifici. Come quel software della primissima immagine. La guida all'uso delle parole sullo schermo rosso dell'Olivetti. Proprio quello. È stato sviluppato in collaborazione con gli editori riuniti. È affascinante capire come funzionasse sotto il cofano, diciamo. Perché non faceva un banale controllo ortografico, faceva una vera e propria analisi statistica del testo. Precisamente. Il programma scansionava il documento inserito dall'utente e classificava ogni singola parola basandosi su enormi database lessicali. Wow! Poteva dirti, ad esempio, che il 55% delle parole che avevi usato apparteneva al vocabolario fondamentale. Un'altra percentuale era di alto uso, un'altra ancora di alta disponibilità. E immagino ti segnalasse i termini troppo scuri. Sì, ti avvisava se stavi usando un lessico eccessivamente tecnico e elitario. Guarda, per me questo è un ribaltamento totale. Perché di solito, specialmente da noi in Italia, c'è questa malsana abitudine, soprattutto in ambito burocratico o accademico, di pensare che usare parole complicate ci renda più autorevoli. Il famoso parlo difficile, quindi sono più intelligente. Esatto, l'antilingua di cui parlava Calvino. Invece questo software ti metteva davanti a uno specchio e ti diceva: attenzione, il tuo testo usa un lessico così esclusivo che solo una minoranza di persone lo capirà. Stai fallendo nel comunicare. È una presa di coscienza forte. E non era l'unico software a farlo. Esiste anche un altro esempio citato nelle fonti, chiamato Face il testo. Quello sviluppato con l'Università La Sapienza, giusto? Sì. Questo strumento andava addirittura oltre il singolo lessico e analizzava la complessità sintattica. In che modo? Suggeriva all'autore di spezzare le frasi troppo lunghe. Gli diceva di ridurre le subordinate, di usare parole più comuni per rendere i testi davvero accessibili a tutti. Per capire la potenza di tutto questo approccio, credo sia indispensabile riflettere su una citazione diretta proprio di Tullio De Mauro. Tratta dal mensile Due parole, sì. Esatto, il documento la riporta ed è stata una vera illuminazione per me. De Mauro scriveva: «Le parole sono fatte, prima che per essere dette, per essere capite». E poi aggiunge: chi non si fa capire viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori. È una frase potentissima. Smantella completamente l'egocentrismo di chi scrive solo per compiacere se stesso. Ma la parte successiva è ancora più dirompente, secondo me. Sostiene che se qualcuno parla in privato, in modo oscuro, vabbè, è solo un maleducato. Ma se a non farsi capire è un giornalista, un insegnante, un dipendente pubblico, costoro hanno il dovere costituzionale di farsi capire. Un dovere costituzionale. Rende la chiarezza una questione di diritti civili, non di stile. Esatto. L'oscurità linguistica, le frasi chilometriche, piene di burocratese, non sono segni di superiorità culturale. In quest'ottica sono atti di prevaricazione sociale. Un modo per tenere fuori le persone comuni. E la tecnologia in quel periodo storico si assumeva l'onere morale di aiutare chi scriveva testi pubblici a rispettare questo dovere. Garantiva l'uguaglianza sociale tramite la comprensibilità. È semplicemente meraviglioso. Strumenti digitali costruiti per difendere la democrazia. Eppure, ascoltando tutto questo, viene naturale chiedersi una cosa. Immagino quale sia. Se l'intento era così nobile e se avevamo a disposizione strumenti capaci di analizzare la nostra sintassi per renderci comunicatori migliori, perché oggi i nostri elaboratori di testo non fanno assolutamente nulla di tutto ciò? Che fine ha fatto il grillo pedante? E questa domanda ci porta verso l'ultima parte dell'analisi. Ed è, per certi versi, una parte piuttosto amara. Cosa è andato storto? L'autore del documento chiude mostrando come l'informatica educativa abbia subito una vera e propria mutazione genetica nel passaggio al mondo che lui definisce del 2.0. Il web moderno? Sì. E lo fa con un aneddoto che riassume perfettamente il crollo di quell'orizzonte culturale. Ah, lo screenshot della ricerca su Wikipedia. Guarda, devo ammettere che mi ha fatto fare una risata molto amara. È abbastanza emblematico. L'autore mostra cosa succede oggi se si cerca su internet la dicitura Due parole, sperando magari di trovare informazioni su quel nobile mensile diretto da De Mauro di cui parlavamo prima. E cosa restituisce l'algoritmo di ricerca contemporaneo? Invece del progetto linguistico democratico, il primo risultato assoluto è la pagina dell'omonimo album d'esordio della cantautrice Carmen Consoli, uscito nel 96. Che dire, un segno dei tempi. Ora, ultimiamoci, nulla contro un ottimo disco di musica italiana, per carità, ma il contrasto simbolico è brutale. L'algoritmo globale seppellisce la pedagogia sotto la cultura pop e l'intrattenimento di massa. Se colleghiamo questo al quadro generale, l'aneddoto serve proprio a introdurre le definizioni lapidarie con cui l'autore descrive lo stato attuale del software per la scuola. Quali definizioni usa? Non si parla più di ambienti per la didattica. Le nuove parole d'ordine sono marketing didattico, portfolio per la competizione sul mercato e competenza tecnica autoreferenziale. Wow, suonano malissimo. Cerchiamo di spacchettare questi concetti. Soprattutto questo marketing didattico. Come è avvenuta tecnicamente questa mutazione? Sostanzialmente abbiamo barattato un mentore digitale severo con un maggiordomo invisibile. Un maggiordomo che corregge tutto senza spiegarci nulla. Esatto. E Il cambiamento è dettato dalle spietate leggi del mercato dell'attenzione che dominano il web odierno. Cioè, l'economia delle piattaforme. Precisamente. I vecchi programmi, forzandoci a riflettere, creavano attrito, richiedevano tempo, fatica cognitiva, pazienza, ma nell'ecosistema moderno l'attrito è il nemico pubblico numero uno. Tutto deve essere fluido, veloce. Se un'applicazione ti fa faticare, se ti interrompe con una spiegazione grammaticale invece di risolvere il problema all'istante, tu la percepisci come lenta e frustrante. E cosa fai? La disinstalli e passi al prodotto della concorrenza che promette una magia immediata. Esatto. Quindi le aziende tecnologiche hanno un incentivo economico diretto a rimuovere ogni ostacolo educativo pur di trattenere l'utente sulla loro piattaforma. Il software non vuole più sfidarti a crescere. Vuole solo compiacerti. Vuole farti sentire veloce e produttivo senza il minimo sforzo. E da qui nasce quella che l'autore chiama la competenza tecnica autoreferenziale. Che significa esattamente? Significa che impariamo a usare compulsivamente le scorciatoie di un'applicazione. Impariamo ad aggiungere filtri, a formattare un documento affinché appaia visibilmente perfetto. Ma senza sapere cosa stiamo scrivendo? Senza necessariamente sapere come strutturare l'argomentazione logica contenuta nel testo. Sappiamo usare lo strumento per il puro gusto di usarlo, ma lo strumento non ci insegna più la materia. È autoreferenziale. È il trionfo assoluto della confezione sul contenuto. E immagino che questo si colleghi al concetto del portafoglio per la competizione. Pienamente. Non impariamo a scrivere in modo chiaro per un dovere democratico verso chi ci legge. Impariamo a usare i software per generare in fretta un output accattivante che ci renda competitivi sul mercato del lavoro. Abbiamo perso di vista l'etica della comunicazione per abbracciare l'estetica della produttività. L'integrazione invisibile della tecnologia è un trionfo ingegneristico, ma spesso è una sconfitta dal punto di vista dell'autonomia cognitiva. Guarda, questo percorso ci porta inevitabilmente a tirare un po' le somme di questa nostra esplorazione. E guardandosi indietro, il contrasto fa riflettere profondamente. È un viaggio che fa pensare, sì. Siamo partiti da quelle massicce macchine Olivetti con schermi che ti stancavano gli occhi, ma che ci offrivano programmi pronti a bloccarci pur di spiegarci l'uso di una singola virgola. E abbiamo riscoperto l'ideale di De Mairo, l'idea che semplificare il vocabolario sia un atto di giustizia sociale. Per poi atterrare nell'epoca della fluidità assoluta dove il marketing detta le regole dello sviluppo software. Un'efficienza superficiale che sacrifica il pensiero critico. È un quadro disilluso ma molto realistico. Ed è per questo che voglio chiudere quest'analisi lasciando a chiunque ci stia ascoltando un'ultima provocazione. Una domanda da far sedimentare nei prossimi giorni. Un ottimo modo per concludere. Abbiamo visto all'inizio come il grande miracolo del passaggio dalla carta allo schermo fosse la liberazione dal famoso supporto rigido. La creta da modellare al posto del marmo. Esatto. L'argilla digitale ci ha regalato il perfezionamento progressivo. Ha tolto l'ansia dell'errore irreparabile spingendoci a migliorare il testo man mano che lo scrivevamo. Un traguardo fondamentale per lo sviluppo delle idee, senza dubbio. Ma pensiamo a quello che sta succedendo esattamente oggi. Nell'era delle intelligenze artificiali generative, sistemi capaci non solo di correggere una virgola in silenzio, ma di scrivere interi saggi o relazioni al posto nostro con un solo clic. Vedo dove vuoi arrivare. Non rischiamo forse di trovarci di fronte a un paradosso micidiale? Il rischio di aver chiuso un cerchio senza nemmeno rendercene conto. Esattamente. Cioè, non stiamo forse creando un nuovo tipo, molto più insidioso, di supporto rigido? Questa volta non è la fisicità della carta a bloccarci. È la facilità estrema della macchina, un sistema che salta completamente l'ostacolo iniziale della prescrittura mentale, perché genera il testo al posto nostro in 2 secondi. E contemporaneamente ci priva della fase di revisione critica, perché l'output ci sembra già confezionato e perfetto, non lo tocchiamo più. Diventa un nuovo blocco di marmo. Intoccabile per pigrizia. Se permettiamo a questa comodità di privarci sia del concepimento dell'idea che della fatica di modellarla, viene da chiedersi chi è davvero l'autore dei nostri pensieri oggi. È un interrogativo cruciale. Quando rimuoviamo tutta la fatica dal processo cognitivo, rischiamo di atrofizzare le competenze che ci rendono padroni della nostra cittadinanza. E se smettiamo di combattere con le parole? Come potremo assicurarci di non perdere mai quel dovere costituzionale di farci capire? Questa è la riflessione su cui vogliamo lasciarvi oggi. Sperando che la prossima volta che un software correggerà silenziosamente un vostro testo, vi fermiate per un istante a chiedervi cosa vi ha appena tolto la possibilità di imparare.